Affitti in nero, sconti all'inquilino che denuncia le irregolarità. Accanto al cartello Affittasi, questo potrebbe essere l'avviso da esporre che devono tenere bene a mente sia i proprietari, che ora rischiano conseguenze civili a non mettere in regola i contratti, sia gli affittuari, che non devono essere loro complici e a cui ora conviene non stare zitti. Calcolatrice alla mano, ecco quanto vale l'evasione sugli affitti. Lo Stato incassa almeno 1 miliardo di euro di IRPEF in meno all'anno. Ci sono poi le mancate imposte di registro e l'evasione sulle tasse locali. Gli affitti in nero coinvolgono almeno 500.000 di contratti e 1 milione di cittadini fuori legge, a cui si aggiungono quelli registrati ma con un canone inferiore a quello effettivo, difficili da conteggiare, o infine i finti contratti di comodato, cioè i finti prestiti gratuiti dell'immobile. L'inquilino in questi casi può denunciare la situazione all'Agenzia delle Entrate, godendo di forti benefici, cioè di un nuovo contratto regolare della durata di 4 anni più 4 e di un canone che sarà pari al triplo della rendita catastale. Si tratta di un maxi sconto rispetto ai canoni di mercato. Secondo i calcoli dell'Associazione degli Inquilini, nelle grandi città come Roma e Milano l'affitto in questi casi potrebbe scendere del 70-90%. Per esempio, al posto di 10.000 euro all'anno pagati in nero per un trilocale in periferia, se ne potrebbero pagare poco più di 2.000. La legge è quella che introduce la cedolare secca sugli affitti, e cioè la possibilità per i proprietari di pagare sui redditi da locazione un prelievo sostitutivo del 19 o del 21%, invece dell'imposta calcolata con le ordinarie aliquote IRPEF, che nella maggior parte dei casi è più pesante. Mettersi in regola quindi conviene a tutti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.